Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. ...1952... La serranda del bar si abbassa rumorosamente. È come una cesura. Quando il bar Trieste chiude a Sant'Arcangelo di Romagna, comincia la notte e tutti vanno a casa. Tutti, tranne i giovanotti del Circle del Giudizio, il circolo del giudizio, che finalmente liberi, nella sala del bar che è del padre di uno di loro, Raffaello Baldini, possono ascoltare i dischi di Nat King Cole e parlare d'arte e politica, come non potrebbero mai fare nell'incantevole provinciale sopore del giorno. Parlano e bestemmiano come veri romagnolassi, sognando nel tempo di una sigaretta e di un altro bicchiere di Sangiovese che tutto il mondo si accorga di loro. E in una di queste riunioni segrete e allegre che uno di loro, Renzo Vespignani, pittore romano innamorato della Romagna, ha portato un amico da Roma, Giuseppe De Santis, un regista comunista e fascinoso, diventato famoso per un film che anche al piccolo cinematografo di Sant'Arcangelo hanno fatto la fila per vedere. Riso amaro. Lo so che un uomo a 50 anni ha sempre le mani pulite e io me le lavo 2-3 volte al giorno, ma è soltanto se mi vedo le mani sporche che mi ricordo di quando ero ragazzo. Nel fermento della serata, De Santis è rapito da un ragazzo che con le tinte di un sogno ad occhi aperti gli sta raccontando come, durante la guerra, si sia scoperto poeta grazie al suo gatto. Quel ragazzo di 30 anni e dal sorriso largo è Tonino Guerra. Tonino Guerra. 1944. Brutta bestiaccia, si ripete Tonino mentre scende di corsa la collina. I raggi di un sole freddo gli indicano la strada per Sant'Arcangelo, dove c'è la sua vera casa, non quella capanna dove sono sfollati per fuggire alle bombe dei tedeschi. Poi si è fatto tutto così in fretta che non c'è stato neanche il tempo di cercare il gatto. «Vado e vengo, il tempo di trovarlo», grida alla mamma Penelope, che lo guarda scomparire nel bosco e comincia a cucire un filo rosso di preghiere. Del gatto a lui in verità non gli importa molto. Quella bestiaccia sarebbe capace di collaborare col nemico piuttosto che morire di fame. Tonino è intelligente e curiosissimo e vuole scoprire se a Sant'Arcangelo i tedeschi ci hanno messo davvero piede come gli hanno detto. Ecco come ricorda quel giorno la biografa e amica di una vita di guerra, Rita Giannini. Quando uscì di casa dopo aver dato da mangiare al gatto, vicino a casa sua ci abitava un aiutante dei partigiani, diciamo, un vecchio fabbro che si chiamava Giorgetti, Alfonso Giorgetti, e questo partigiano gli disse che c'erano dei volantini da portare ai partigiani, appunto, per contro i nazifascisti. E quindi portò questi volantini. A quel punto, quando fu in piazza, lo fermarono penso dei fascisti e lo arrestarono. E questa è stata la cosa più terribile che gli fosse mai successa, perché dice: se mi prendono con questi volantini mi fucilano subito. Ad un certo punto fu caricato sul camion per essere portato via, perché prima li portarono in un carcere a Forlì, e mentre era su questo camion vide passare una contadina che aveva delle uova, aveva un cesto di uova. Lui chiese al tizio che gli teneva il fucile puntato addosso se poteva chiedere a questa contadina un uovo, e con la scusa dell'uovo gettò nel grembiulone, le contadine portavano questi grembiulone, gettò questi volantini, lei li nascose e lui fu salvo. Scampato alla fucilazione, Guerra viene deportato in Germania, nel campo di concentramento di Troisdorf. Nella baracca fatta di legno e spifferi di gelo, divide brande speranze con altri conterranei. Quella lingua morbida e segreta, il dialetto romagnolo, li unisce e li rende forti contro gli ordini gridati nel duro e sgraziato tedesco. E così, ogni sera, dopo che le luci vengono spente e si ritorna nella disperata oscurità della notte, Guerra si riunisce ai compagni e improvvisa versi e poesie nella loro lingua, che è il profumo dei boschi e della Valmarecchia dopo la pioggia e la punta aspra del pomodoro nel ragù della domenica. Questo è il muro, questi gli scarabocchi che facevo col gesso da bambino, quando ho imparato a seguire il braccio per fare una riga lunga e qualche svolazzo. Questo qua è il muro, questi gli scarabocchi. Non ci sono matite né fogli nella baracca e Tonino compone in rima proprio per aiutarsi a ricordare quelle frasi diventate un dolce nutrimento per i compagni. Frasi delicate che suggellano l'arrivo della notte e la speranza di un giorno più gentile. E qui, tra le braccia senza futuro della baracca di Troisdorf, che Tonino Guerra diventa un poeta. Il vento le trasporta sui mari e sulle terre, la madre delle guerre li copre di pietà. Dio mio, com'era grande, biondo e l'aspetto fiero, in premio il cimitero ha meritato già. E poi finalmente la guerra finì. Contento, proprio contento sono stato molte volte nella vita, ma più di tutte quando mi hanno liberato in Germania, che mi sono messo a guardare una farfalla senza la voglia di mangiarla. Quando tornò, queste poesie che lui aveva imparato a memoria perché non aveva da scriverle, ebbe una grande, grande sorpresa. Un medico di Ravenna che era nella stessa baracca sua era riuscito con una matita e un foglietto, perché lavorava in infermeria, a scrivere molte di queste poesie e gliele portò, gliele regalò. Con tutto questo malloppino di poesie andò da Carlo Bo, che era il suo professore a Urbino, gliele fece leggere e Bo si innamorò di queste di questa poesia che univa la lingua dialettale, ma una nuova lingua, alla nuova poesia. 1952. L'alba scivola sui vetri del bar Trieste, che tra poche ore riaprirà per offrire caffè e il primo bicchiere di rosso della mattina ai sant'arcangiolesi. Giuseppe De Santis, già famoso regista di Riso Amaro, è conquistato dai racconti e dalle poesie di Tonino Guerra. Lui è un uomo di cinema e sa che in quel linguaggio nato da radici antiche si cela qualcosa di nuovo e di ancora inesplorato. Che ci fai qui? Ancora qui, a Sant'Arcangelo? Chiede De Santis a Tonino, accendendosi l'ultima sigaretta della notte. Vieni a Roma, vieni a fare cinema. Cinema? Tonino non ci aveva mai pensato. Il suo mondo erano la Valmarecchia, la pittura a cui si dedicava senza sosta e ovviamente la poesia, dopo il buon successo della sua seconda raccolta Ibu. Il cinema, certo. Si guadagnerà di più delle 2 lire che si tirano su facendo l'insegnante alla scuola di avviamento. E poi ha 30 anni, una fidanzata che si vuole sposare e quel paese, Sant'Arcangelo, che adora e che insieme lo imprigiona come un cappotto troppo stretto. Sono nato a Sant'Arcangelo di Romagna. Ho avuto l'infanzia con strade di terra battuta e siepi con piccoli uccelli. Sono stato un grande cacciatore di lucertole e me ne vergogno. Ipnotizzato dalla brace della sigaretta di De Santis, Guerra pensa a cosa diranno gli amici, la fidanzata e soprattutto i genitori. Così vicini, così lontani. Lui poeta, pittore, lui che va a scuola in pigiama perché si è svegliato in ritardo e loro commercianti, mani forti e orgoglio nel sangue. La madre Penelope è una donna unica, piccola, scura, occhi di fuoco. È analfabeta, ma è capace di far fruttare i conti della piccola impresa commerciale della famiglia. Parla con tutti e tutti l'ascoltano. Anche i cavalli imbizzarriti si domano nel tempo di un'occhiata. Lei gli si mette semplicemente di fronte, fissandoli col suo soffio magico. Quando scrisse qualcosa sulla madre, disse che lui le insegnò a scrivere e una volta imparato lei scrisse il testamento, e la descrizione di questo testamento è stupenda, perché Guerra dice: ho letto il suo testamento e era scritto così su un foglio nascosto nell'astuccio di cartone dei suoi occhiali da vista. Ecco, lo leggo perché così non mi sbaglio. Ecco, Lascio, perché lei non sapeva bene scrivere, Lascio tutti i miei beni a mio marito, da fare tutto quello che vuole. Carabini Penelope, e aggiunge il maestro, a quel tempo mia madre possedeva dei vasi di fiori. Il padre Odoardo, invece, è un uomo virile e silenzioso, tipicamente romagnolo, e ovviamente non avvezzo alle smancerie, come si capisce nel magico racconto che Tonino Guerra fa del suo ritorno dalla prigionia in Germania nel 1945. Era domenica. Tutti credevano fossi morto. Per non spaventare mio padre e mia madre, ho impiegato un giorno intero a percorrere il chilometro di distanza che c'era dalla stazione alla nostra casa. Mio padre mi aspettava sulla porta di casa. Non ci eravamo mai dati né baci né stretti di mano, appena dei segni. Io mi fermo a 4 metri da lui per non metterlo in imbarazzo. Il babbo mi guarda a lungo, stringendo il mezzo toscano in bocca. Poi toglie il sigaro spento e mi chiede: «Hai mangiato?» Io rispondo: «Moltissimo». E lui se ne va indaffarato verso il paese, senza girarsi più indietro. Quando, più tardi, circondato dai parenti, sono seduto nella camera che chiamavano la saletta, arriva un uomo con una piccola valigia in mano e a questo uomo io chiedo: «Cerca qualcuno?» «Sono il barbiere. Suo padre mi ha detto che devo fargli la barba». Mi tocco il viso e mi accorgo di avere la faccia con la barba di 2 giorni. Sun to sun astride, a briefcase of brochures and hopefully. Dopo il suo ritorno dalla Germania, Guerra riprende a studiare, laureandosi in pedagogia all'Università di Urbino, con la stima e l'appoggio del noto scrittore Carlo Bo, che lo aiuta a pubblicare la sua prima raccolta di racconti, quelli composti in Germania, i Scarabosch. Da quel momento Tonino comincia a lavorare come insegnante nella scuola d'avviamento di Savignano, in provincia di Forlì. Ma non è un insegnante come tutti gli altri, come ricorda ancora Rita Giannini. Io ho conosciuto moltissimi dei suoi ex allievi e naturalmente portò la sua straordinaria figura di uomo artista innanzitutto anche nella scuola. Pensi che per un anno intero ha dato sempre lo stesso tema. Quando c'era la sua ora, lui come compito a casa dava sempre un tema con lo stesso titolo: ieri sera a cena, perché voleva che i ragazzi sviluppassero la fantasia, la loro creatività, quindi no, chiaramente non gli importava nulla di quello che avevano mangiato a cena. Chiaramente era un insegnante estroverso e un po' strano, tra virgolette. A volte gli capitava di salire sul treno mettendo il cappotto sopra il pigiama, perché magari si era addormentato, era distratto, quindi arrivava, gli allievi lo ricordano, arrivava a scuola col pigiama sotto il cappotto. La vita di Tonino Guerra sembra già scritta, come immobile è il profilo delle colline che ogni mattina saluta dai fuligginosi finestrini del treno che lo porta a scuola. Eppure lui sa che, a parte gli amici del circolo del giudizio, nessuno capisce veramente i suoi dipinti, le sue poesie, tutti gli sforzi che fa per affermare la sua vera personalità. Nel 1953, spinto dai buoni auspici dell'amico Giuseppe De Santis, Tonino Guerra arriva in una Roma in pieno fermento. Le buche dei bombardamenti vengono chiuse per far posto a palazzine fatte in serie e le strade ingrandite per far passare le automobili sempre più numerose. Il chiasso, le rovine e i colori abbaglianti della capitale inebriano, ma non confondono Tonino, che si butta a capofitto nel mestiere di sceneggiatore. E intanto conosce futuri registi come Elio Petri, Pierpaolo Pasolini e Aglauco Casadio, per cui scriverà il primo vero film, Un ettaro di cielo. Di cielo? Sì, lottizzano, rivendono, così, come una torta. Oh, tutto di nascosto, naturalmente. Ma uno che cosa se ne fa col cielo? È aria, non siamo mica uccelli. Già, che discorsi. Intanto ci si va a stare dopo morti, e comodamente. E c'è bisogno di pensarci adesso? Tipo come te, no. Ma non ti ricordi quel cacciatore che veniva tutti gli anni per Natale quanto ha speso per la tomba? Mi pare che sia meglio comprarsi un pezzo di cielo piuttosto che una lapide da morto. Io, se potessi, me lo comprerei. E tu, Alfredo? Magari. Nel film, un giovanissimo Marcello Mastroianni convince un gruppo di contadini romagnoli a comprare un pezzetto di cielo per quando arriverà il loro momento di salirvici. Una storia troppo stralunata e poetica per il pubblico italiano degli anni 50. Un pubblico che vuole emozioni chiare e definite, vuole piangere con Catene, melodramma con un foschissimo Amedeo Nazzari, e vuole ridere con Totò a colori, dove il principe De Curtis corre e lancia battute eccezionali per 1 ora e mezza senza far riprendere fiato al suo pubblico. Beh, allora, se mi permettete, io sono l'onorevole Cosimo Trombetta. Trombetta? Sì. Trombetta, Trombetta, questo nome non mi è nuovo. Beh, l'avrete letto sul giornale, vero? Io ho conosciuto anche suo padre, sa? Sì? Beh, non mi stupisce. Mio padre è talmente conosciuto. Chi è che non conosce quel trombone di suo padre? Ecco ancora Rita Giannini. Si era poi sposato a Sant'Arcangelo, aveva quindi una casa, una moglie, poi ebbe anche due figli, quindi la sua vita era un po' divisa tra questa sua città natale e Roma. E disse sempre che i primi 10 anni a Roma furono molto difficili, difficili per farsi conoscere, difficili per cominciare appunto a raccogliere anche i frutti di questo suo grande impegno, perché scriveva moltissimo, ma chiaramente delle tante cose che scriveva poi ne venivano realizzate non altrettanti, insomma, ma un numero. Chiaramente il successo venne dopo i primi 10 anni e poi fu un successo straordinario. Un successo che dipende da un altro incontro occasionale, da un'altra folgorazione. Guerra è un poeta. Raccontare è il suo mestiere, la sua vita e la gioia con cui anche quella sera rievoca una delle storie vissute durante la prigionia in Germania, conquista da subito un altro talento emergente del cinema, uno diverso da quelli che ha conosciuto fino ad ora. Era la notte di Natale del 44 e la brodaglia che i tedeschi chiamavano cena non era ancora arrivata. Così comincia la storia che Tonino Guerra racconta a una festa a casa di Giuseppe De Santis. Tutti gli altri ospiti, raccolti come attorno al camino di quando erano bambini, si lasciano trasportare dalle sue parole infantili e delicate. Ma solo uno capisce che quelli non sono solo ricordi, ma poesia pura. È un uomo schivo, silenzioso, imprigionato nel suo abito grigio dalla piega perfetta e da occhi inesausti. È Michelangelo Antonioni. Michelangelo Antonioni. La magica storia di Tonino Guerra e Michelangelo Antonioni continua tra poco a Destini Incrociati. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati siamo nella Roma degli anni 50, tumultuosa capitale del cinema e crocevia di artisti alla ricerca della propria affermazione. Tra di loro c'è Tonino Guerra, squattrinato ma geniale cantastorie fuori dal tempo e dallo spazio, che come una bocca di leone della sua Romagna ha bisogno di un altro genio che faccia fiorire il suo talento. Era la notte di Natale del 44 e la brodaglia che i tedeschi chiamavano cena non era ancora arrivata. Accompagnati dal jazz di Chet Baker, che scivola come caffè caldo dal giradischi, tutti gli invitati alla festa del regista Giuseppe De Santis ascoltano lo struggente racconto del Natale che Tonino Guerra trascorse nel campo di concentramento di Troisdorf, come ci racconta con parole struggenti la grande amica e biografa Rita Giannini. Di Natale tutti aspettavano quella che loro chiamavano la brodaglia che non è arrivata, perché arrivava con un camioncino, questo grande pentolone di acqua dove dentro bollivano delle cose strane, pezzi di patate, di cavolo, insomma era una cosa tremenda, però tutti comunque l'aspettavano perché erano tanto affamati e quella notte non arrivava. Allora lui si mise a raccontare come la madre preparava le tagliatelle e diceva sempre che quando era ragazza non aveva mai guardato con attenzione quello che la mamma faceva in cucina, eppure lì gli tornò tutto in mente e iniziò la descrizione in maniera minuziosa nel momento in cui aprì la maglia per prendere la farina, la appoggiò sul tagliere e poi gli mise le uova dentro, insomma la descrizione della preparazione, poi il taglio delle tagliatelle, poi gli mise sopra il sugo e in realtà preparò tutti i piatti, no, con questo racconto e le distribuì a tutti. Ma la cosa meravigliosa fu che alla fine qualcuno chiese anche il bis. Questo era un racconto che piaceva tantissimo anche a Michelangelo Antonioni. Antonioni non applaude, come fanno gli altri ospiti, ma è conquistato dal racconto e non solo perché è appassionato, non solo perché lui in trincea non ci è mai andato e ha svolto il servizio militare in ufficio a Roma. No, è per come Guerra ha raccontato quella storia, quasi come un film. Antonioni è schivo, nebbioso, è emiliano di Ferrara, non romagnolo come Guerra. Un abisso li separa, eppure capisce che c'è qualcosa di familiare e di unico in quell'ometto solare dalla camicia chiassosa e le guance troppo rosse. Ecco cosa ne pensa lo scrittore sant'arcangiolese e critico cinematografico Michele Sancisi. Il fatto che Tonino Guerra e Michelangelo Antonioni abbiano potuto incontrarsi come artisti e convivere come narratori è abbastanza sorprendente, perché da una parte Tonino Guerra, appunto, come abbiamo detto, romagnolo fino al midollo, poeta dello sguardo estatico sulla natura che si perde ad osservare un fiore, un fiocco di neve, dall'altra parte Michelangelo Antonioni, emiliano un po' anomalo, molto cerebrale, distaccato, raffinatissimo, che ti mette in soggezione, no, un po' fin dal nome così altisonante. Il giorno dopo, nell'inquietudine di un pomeriggio primaverile troppo lungo, Antonioni si arrovella sugli appunti del suo nuovo film. Un uomo, una donna, un'altra donna scomparsa, un paesaggio aspro e inospitale. Manca ancora qualcosa. Pochi segni di graffite sul foglio protocollo, ogni riga riempita oltre la linea blu che delimita l'ordine e la buona creanza. Non è uno che guarda queste cose, Antonioni. Quegli appunti diventeranno l'avventura, il suo nuovo film. E se la storia sulla carta non sembrasse un giallo, non avrebbe trovato il denaro per realizzarlo dopo l'insuccesso del suo ultimo film, Il Grido. Il Grido è il grido soffocato di un uomo che con la violenza o con la forza del suo amore tenta invano di riconquistare la sua donna e vaga inutilmente nella disperata ricerca di un affetto e di una pace che non ritroverà mai più. Negli ultimi anni Antonioni si è arrangiato come ha potuto nel mondo del cinema, concludendo film abbandonati da altri, come il mitologico Nel segno di Roma di Guido Brignone, e prestandosi alla regia teatrale, ma senza ottenere nemmeno l'appoggio della sua unica alleata, la critica. Ecco cosa ricorda lui stesso. Il teatro mi annoia come regista. Essere costretto a un solo taglio di inquadratura, senza alcuna possibilità di sfruttare appieno le espressioni di un attore come si fa al cinema con il primo piano. Era troppo frustrante per me. Antonioni desidera il cinema. Vuole rapire l'anima dei personaggi con uno stile nuovo e moderno ed è disposto a tutto pur di riuscirci. Ci è abituato. L'ha sempre fatto fin da ragazzo, nella nebbia che quasi ti cancella della sua Ferrara. Profumo di pioggia segreta nei covoni di fieno dove si è nascosto per leggere L'amante di Lady Chatterley di D.H. Lawrence e una cascata di campanelli di biciclette che sfilano la folla sui listoni di Piazza Trento e Trieste sono la cornice della sua infanzia. Michelangelo ha un nome che suona importante, ma non è un campione dello sport come vorrebbe il fascio ed è più interessato a intrufolarsi nel cinematografo di fronte a casa che allo studio. A lui interessa scoprire il mondo che non può essere tutto tra le mura medievali di Ferrara. E quando può trasferirsi a Bologna per studiare all'università, accetta di frequentare qualsiasi facoltà compiaccia il perbenismo piccolo borghese dei genitori, pur di andarsene. Tu non hai sogni, non hai aspirazioni. Spendi la tua esistenza goccia a goccia e conservi per te sola il segreto della tua pacatezza e del tuo stile. Non scuoterti, taciturna viuzza. La tua religione, il silenzio, che è anche la tua bellezza. Ricorda così, con nostalgia e una punta da credine, Michelangelo Antonioni, la sua Ferrara. È il 1936 e lo fa da Bologna, dove vive. La Bologna che non è più grande e piena di opportunità come gli era sembrata all'inizio e dove continua a studiare con stanco profitto alla Facoltà di Economia e Commercio. Ma sono le materie culturali e le lezioni di letteratura ed arte a cui si intrufola di nascosto ad appassionarlo davvero, tanto da permettergli di raggiungere la sicurezza necessaria per scrivere recensioni cinematografiche e racconti per il Corriere Padano. Il complesso di non aver fatto degli studi classici mi rimarrà sempre un po'. Mi piaceva molto scrivere, ma non mi ritenevo abbastanza colto. Pensavo che per scrivere ci volesse una grande cultura. Eppure, nonostante i complessi, nel 1940 Antonioni vince la Littoriale della Cultura, la massima espressione dell'onore fascista. E le cose cambiano. A parte il premio, una goffa e gigantesca M dorata, in ricordo del duce, e la somma di denaro allegata che gli interessa, e con essa la possibilità di trasferirsi dove l'arte, che per lui ormai è soltanto il cinema, si fa davvero. Roma. Nella capitale Antonioni entra a far parte della redazione di Cinema, una rivista di critica cinematografica diretta da Vittorio Mussolini, il figlio di Benito, che in ufficio non si fa mai vedere. È gestita con una redazione di giovani intellettuali, tra cui Giuseppe De Santis, con cui diventa immediatamente molto amico. Sognano di diventare registi e per trovare le loro storie cercano per la strada, frugano tra i fatti della gente comune e non solo. Avevo deciso di girare un documentario sui matti. Mi presentai al direttore del manicomio di Ferrara. Mi misi d'accordo con lui per utilizzare degli schizofrenici veri. Erano molto mansueti e dolcissimi, ma al momento di girare, quando abbiamo acceso i proiettori, la stanza divenne una bolgia infernale. Fu intorno a quella scena indimenticabile che cominciammo a parlare di neorealismo senza nemmeno saperlo. You said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. Con Roma città aperta di Rossellini, il neorealismo si plasma nella sua forma più perfetta e fa il giro del mondo. Molti registi seguono il filone con successo, ma quando trova i finanziamenti per realizzare il suo esordio, Cronache di un amore, Antonioni non si accoda e cerca un nuovo stile senza regalare niente al pubblico. Nessuna scena madre, niente risate, niente lacrime. I suoi primi film sono una lucida e disperata elaborazione della realtà che impone al pubblico un esame di coscienza scomodo e doloroso. Ci vorranno 10 anni per arrivare alla svolta e a quella famosa serata dove l'elegante regista incontra il lunare chiassoso poeta. Ancora il critico Michele Sancisi. Torino Guerra incomincia con una raccolta di versi che si intitola Gli Scarabocchi. Antonioni è il regista internazionale che fa opere che si chiamano Deserto Rosso, Zabriskie Point, diciamo, sembra veramente agli antipodi. Eppure questo forse è il mistero dell'arte, cioè il mistero non solo di come un artista riesca a elaborare la sua opera indicandoti qualcosa che tu ancora non vedi, no? E che verrà, ma come due artisti ancora in maniera ancora più difficile riescano a tirare fuori dai loro due opposti qualche cosa che c'è in mezzo e che assume un senso che forse va al di là della potenzialità di ciascuno dei due, no? Insieme riescono a fare più di due, non è solo la somma di 1 più 1, ma diventa 1 più 1 uguale 3. Pochi giorni dopo essersi conosciuti alla festa dell'amico De Santis, Guerra riceve una telefonata da Antonioni. Vuole vederlo perché ha una proposta per lui. Tonino è incuriosito. Non gli era sembrato molto interessato alle sue storie e non sa cosa quell'uomo alto e un po' allampanato abbia in serbo per lui. L'idea mi era venuta qualche settimana prima. Ero in crociera e seppi di una donna scomparsa in mare. E da qui cominciarono a venirmi in mente alcune scene slegate, frammentarie, dell'avventura. Quando si incontrano, lo sguardo di Antonioni si ficca negli occhi di Guerra con disarmante naturalezza, come se lo stesse passando ai raggi X. Poi gli parla dell'idea del film. Sono solo pochi appunti che nella mente di Michelangelo sono già immagini vive e in movimento. Guerra è più dubbioso. Il film racconta la storia di un uomo e di una donna che cercano la moglie di lui scomparsa su una piccola isola e si innamorano l'uno dell'altra. Ma non è un dramma, non è un giallo, non sembra nemmeno un film. I personaggi sono tutti borghesi annoiati e infelici e la storia, così apparentemente realistica, che a Tonino sembra inadatta per la sua poetica primitiva e visionaria. Eppure c'è qualcosa nei silenzi gravidi di promesse di quel ferrarese che sembra suggerirgli la strada da percorrere. E quasi senza rendersene conto, Antonioni, Guerra, insieme ad Elio Bartolini, iniziano a scrivere la sceneggiatura di un film che, loro lo sanno, non assomiglia a nessun altro. E comincia l'avventura. Io nella biografia che ho scritto del maestro Tonino Guerra ho citato un brano di Tonino dove dice: la realtà per essere vera deve sempre essere inventata. Ecco, e queste sono proprio le parole di Tonino Guerra. E credo che questa sua irrazionalità, questo apporto che il maestro Guerra riusciva a dare andasse molto bene per il film che voleva fare Michelangelo Antonioni, no? Che era un film sull'incomunicabilità, sulla solitudine. La storia di come nacque uno dei più grandi film della storia del cinema, L'avventura, continua tra poco, a Destini Incrociati. Destini incrociati. La realtà per essere vera deve sempre essere inventata. Oggi a Destini incrociati siamo nell'Italia del boom economico. Un paese così intento a ricostruirsi dalle macerie della guerra da non accorgersi della poetica inafferrabile di Michelangelo Antonioni e Tonino Guerra. I due, diversi come il giorno dalla notte, si sono inaspettatamente ritrovati tra le pagine della sceneggiatura che stanno scrivendo e su cui stanno puntando tutto, l'avventura. Mentre scrivono il film a casa di Antonioni, c'è un gran chiasso che proviene dalla strada. Automobili, gente che urla come al mercato. È l'Italia del boom, l'Italia che si sta svegliando al ritmo di un tamburo trascinante. Antonioni, invece, scava nel profondo di quel chiasso, medita il silenzio e ha bisogno delle visioni di guerra per farlo. I suoi personaggi sono anti-eroi del presente, travolti da un disagio che sono incapaci di esprimere. Saranno i luoghi e i volti a parlare per loro. Per questo sceglie le spiagge rocciose di Lisca Bianca e il barocco cotto dal sole di Noto, in Sicilia. Mentre per il volto si affida a quello luminoso e inquieto di un'attrice teatrale fino ad allora prettamente comica, che diventerà la sua musa. Monica Vitti. È il settembre del 1959 e la troupe arriva in Sicilia per le riprese. La produzione è povera, l'equipe è ridotta all'essenziale e l'estate si guasta subito, tramutandosi in un precoce e rigidissimo inverno. Ho con me 20.000 metri di negativo, la macchina da presa e pochi amici, cioè la mia troupe. I soli pronti a seguirmi con qualsiasi mare, contro qualsiasi ostacolo materiale o morale per non fermare il film. Un'esperienza totalizzante profetizzata già dal titolo. 5 mesi logoranti e difficili, spesso perfino drammatici, quando il produttore scappa con gli ultimi soldi rimasti e la troupe si mette in sciopero. Tutto sembra andare alla rovescia, senza contare il senso di abbandono che quei luoghi deserti e primitivi suscitano in Antonioni stesso. Ma perché star qui a discutere, a parlare? Le parole, credi a me, Anna, servono sempre meno. Mi confondono. Io ti voglio bene, non ti basta? No, non mi basta. Ecco come Monica Vitti ricorda quel periodo. La lavorazione di un film d'Antonioni è sempre qualcosa di avventuroso, qualcosa di imprevedibile. E questo è uno degli elementi che ne fa un periodo importante della vita. Le conseguenze poi sono altrettanto imprevedibili. Finalmente, grazie al denaro di un produttore francese, il film viene completato in fretta e furia e presentato al Festival del Cinema di Cannes del 1960. Antonioni e il cast sono immortalati sulla celebre Montée de Marche dai flash dei fotografi, come grandi star. Ma anche qui le cose non vanno come previsto. La proiezione dell'avventura è un vero disastro. In sala il pubblico, prettamente mondano, ride nelle scene più drammatiche e si irrita per la critica spregiudicata alle virtù della classe borghese. Guerra e Antonioni, che così tanto hanno creduto in quel progetto, temono di aver perso ancora una volta la loro scommessa con il cinema. E invece il film conquista la critica e viene premiato a sorpresa. Ecco come Martin Scorsese, grande fan di Antonioni, ricorda quel momento magico. L'avventura è il primo film dove Antonioni sperimenta davvero tutte le possibilità offerte dal cinema, quelle tecniche, ma anche emotive, morali, e lo fa in modo modernissimo, che poi affinerà con i successivi film, La Notte, L'Eclissi, Deserto Rosso, che fanno parte di un'ideale tetralogia. Mi fanno male i capelli, gli occhi, la gola, la bocca. Guerra e Antonioni lavoreranno ancora molte volte insieme, creando i tasselli di quel cinema dell'incomunicabilità che, come sottolinea il critico Michele Sancisi, elabora con inquietante preveggenza la crisi di valori e le nevrosi contemporanee. Questi due invece forse vedevano già oltre, ci indicavano un tempo a noi più vicino, dominato dall'incertezza, dall'alienazione del lavoro, oggi del non lavoro. E da una incomunicabilità che per noi oggi è comunicazione compulsiva sotto la quale forse c'è l'incapacità di incontrarsi veramente. Dimmi se sto tremando. Sì, un po', ma forse è il freddo. Sì, ho freddo. Ho freddo. God knows how I adore life. Dopo 30 anni nel cinema che gli regala anche un Oscar per Amarcord di Federico Fellini, altro romagnolo, altra amicizia vera e indissolubile, Guerra lascia Roma nel 1982 per tornare alla sua Romagna e alla sua poesia, e concedendosi perfino una grande notorietà grazie a un celebre spot televisivo. Gianni, l'ottimismo è il profumo della vita, l'ottimismo vola! Questo Gianni, che è un uomo altissimo, magro, diceva Tonino non bello, per non usare la parola brutto, era un uomo eccezionale, per lui era proprio l'amico dei viaggi, di tutte le esplorazioni nelle campagne, a vedere le case abbandonate, le vecchie strade romane, insomma era l'uomo che tutti i giorni lo accompagnava in questa riscoperta della natura. Se hai il sospetto che stai per morire, mettiti una scatola di fiammiferi in tasca, che la notte sarà lunga, lunga. Dopo la malattia che ha colpito Michelangelo Antonioni, era molto più difficile comunicare con lui, riusciva a malapena a parlare. E Tonino Guerra diceva sempre: i saluti che ci facevamo erano fatti di silenzio e attorno a lui c'era un'aria senza immagine, perché purtroppo ultimamente stava diventando cieco. Però era tanto grande la nostra amicizia che ogni volta che ci vedevamo esplodeva la memoria con tutti i ricordi, tutte le immagini dei nostri giorni di lavoro e di viaggi. Quando Antonioni scompare nel 2007, lo stesso giorno di un altro grande regista, Ingmar Bergman, Guerra prepara la valigia per tornare a Roma. Ci mette un foglio con una poesia. Non è recente. L'ha scritta per un vecchio compleanno di Michelangelo, in ricordo di un viaggio in Medio Oriente. Fu un viaggio felice, come deve essere quel funerale. Quando sale al Quirinale, trovandosi di fronte a una marea di persone venute a salutare l'amico, gli manca quasi il fiato. Poi quell'antipatica lucetta rossa sul microfono si accende. Vuol dire che deve cominciare a leggere. E lui lo fa. Michelangelo. Ogni tanto siamo ancora insieme sul barcone che scivola sulle correnti dell'Amudaria. E noi aprivamo con i denti i semi neri dei girasoli. Stavamo in mezzo a corde, bidoni, fagotti di zingare ammucchiati davanti a un sidecar rosa. E intanto i marinai con pertiche lunghe ci tenevano lontano dalle secche della sabbia. Ma Tonino non sente quello che legge. No, lui sogna e ripensa a quel ferrarese alto che sembrava un principe e invece era una tigre che nemmeno la malattia degli ultimi anni aveva saputo ammorbidire. E pensa anche a se stesso, a quel ragazzino che correva per i boschi alla ricerca di un gatto, dando a ogni albero un nome, a ogni piccola cosa comune, l'importanza e la magia di un sogno. Seduti sul bordo della barca, senza sapere dove ci portava, guardavamo la striscia d'acqua del fiume che laggiù, in fondo, si perdeva, così da farti pensare che il viaggio finiva a Ferrara.